quella notte, quando la luna sul monte appare, l'ombra di una paloma, torni nel cielo, torni a cantare. Giura che il dolce canto passa nel vento come un lamento. Giura che nell'incanto sembrano dirle con un pianto. Sul monte la luna accende l'oscurità, l'eco del triste canto porta l'amore a chi ascolterà. Voce di una paloma che un dì si perse lassù nel cielo. Voce di una paloma che si smarrì nel lungo volo.